Presidente Galan, in che senso lei parla di un terzo Veneto? Per dare il senso della prospettiva, c'è il Veneto, c'è il primo Veneto, quello della miseria, di cui non ci vergogniamo, c'è il Veneto della rinascita, della crescita del benessere, della crescita del benessere, della produzione di ricchezza, di un'economia straordinariamente efficiente. E adesso è venuto il tempo di riflettere su noi stessi e di rendere la nostra vita più bella, è una qualità della vita migliore, perché è questo che ci meritiamo, insieme alla conservazione di quello che abbiamo raggiunto. C'è una sorta di senso di inferiorità, una percezione di senso di inferiorità da parte del Nord-Est? No, c'è casomai un complesso di superiorità, onestamente, a volte, che ci fa, mi lasci passare il termine un po' volgare, che ci fa incazzare da pazzi quando ci vediamo rappresentati per quello che non siamo. Ci vediamo rappresentati come un popolo egoista, non ospitale, ignorante, quando è esattamente vero il contrario, come non ci rappresentavano una volta, ma almeno erano dal punto di vista qualitativo sofisticati i film di Monicelli, dove i veneti e le venete erano le cameriere delle signore milanesi, così ci rappresenta, ma molto meno oggi, le trasmissioni alla Gard Lerner o alla Santoro, dove il Veneto è un popolo semplicemente di gente dedita ai piaceri a pagamento e al lavoro, ecco. Non lo siamo, siamo un po' meglio. Lei ha parlato di rabbia, orgoglio e richieste. Con chi ce l'ha? Provi a indovinare. Ce l'ho con chi nello Stato centrale, sia esso di destra, di sinistra, di centro, di centrodestra o di centrosinistra, pensa ancora oggi che il Veneto sia fatto di gente che lavora soltanto per finanziare gli sprechi, le clientele, le inefficienze del resto della nostra Repubblica. Ecco, il Veneto è tutt'altro, è disposto a dare grandi prove di solidarietà alle regioni meno fortunate, purché finiscano gli sprechi e purché al Veneto vengano riconosciute almeno una parte di quelle prerogative che ai nostri confinanti, soprattutto Trentino e Alto Adige, ma anche Friuli, Venezia e Giulia, sono state concesse. Dalla nuova maggioranza parlamentare, dal futuro governo, che cosa vi aspettate e cosa chiedete? Ho tante cose, chiedo e mi aspetto, e paradossalmente sono assolutamente asettico dal colore di... I soldi abbiamo saputo dimostrare di farceli dare, ci riusciamo, ci hanno finanziato Berlusconi prima, ma anche Prodi dopo, tutte le opere pubbliche di cui avevamo bisogno. Quello che chiediamo oggi si chiama federalismo fiscale, solo esclusivamente questo, che è la madre di tutte le battaglie. Come ci tengo a dire, che il federalismo fiscale non significa più soldi, significa più responsabilità, più competenze, più assunzione e più carico di responsabilità. Quando lo Stato ha delegato alle regioni alcuni compiti, pensi alla sanità o alla gestione dei rifiuti ad esempio, ci sono regioni che hanno dimostrato di fare bene e altre male. Ce n'è una che ha saputo fare benissimo e si chiama Veneto. Ne trarrebbe vantaggio dal federalismo fiscale questo rapporto fra imprese e città di cui si parla durante il festival? Ne trarrebbero vantaggio tutti, perché quando c'è federalismo fiscale, quando sai dove vanno le imposte che paghi, c'è un contratto sociale più vicino al cittadino, c'è la richiesta di una maggiore efficienza. Pensi all'ANAS, quando l'ANAS gestiva le strade del Veneto erano lontanissime le decisioni. Oggi con Veneto Strade, le strade sono state, molte strade sono state delegate alla gestione di questa società regionale, e le cose vanno molto meglio e con minor spesa e maggior contentezza di tutti. Se l'abbiamo saputo fare sulle strade, sulla sanità, sul sociale, sulla gestione dei rifiuti, è perché non dovremmo farlo anche su tutto il resto.